la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:07 primi 19 secondi in questo venerdì 29 settembre in diretta da Milano. Vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino e vi dice l'argomento di cui parliamo oggi. L'argomento trae spunto da questa terribile vicenda avvenuta a Milano ma che ha un prodromo parecchi anni fa a Genova. Ed è la vicenda di Edgar Bianchi, questo 39enne che ieri è stato arrestato, autore di una violenza su una ragazzina. Pare che a Milano in realtà ne abbia compiute prima di queste, per cui è stato, come vedremo, non arrestato, riarrestato. Ne avesse compiute diverse altre. La polizia sta mettendo insieme tutti i dati di quelle segnalate e non segnalate soprattutto, e la storia di questo Edgar Bianchi, 39 anni, ieri arrestato a Milano, è una storia un po' particolare perché stiamo parlando di una persona che a settembre del 2006, 11 anni fa, è stato arrestato a Genova perché a Genova aveva compiuto più di 20 violenze seriali con le stesse modalità, quindi seguendo bambine e ragazzine in androni e ascensori di palazzi, costringendole poi con la minaccia di coltelli ad atti sessuali. Per 2 anni e rotti a Genova non erano riusciti a identificarlo, dopodiché viene arrestato. Dopodiché viene naturalmente sottoposto al procedimento giudiziario, viene condannato a 14 anni e 8 mesi in primo grado, in appello diventano 12 anni, i 12 anni durante l'esecuzione della pena diventano poi 8 per un indulto che interviene per i reati minori, comprese le tentate violenze, gli atti osceni. E quindi Edgar Bianchi si trova, scontati 8 anni rispetto ai 12 dell'appello, che erano scesi rispetto ai 14 anni e 8 mesi del primo grado, torna libero. E a quel punto scompare, se ne perdono le tracce, e adesso viene reidentificato e arrestato come autore a Milano di nuove violenze sessuali su ragazzine. Perché questa vicenda mi fa molto riflettere e torno ad occuparmi della questione su cui vi chiedo cosa ne pensate? Chiamateci all'800 24 0024, diteci ancora una volta, a vostro giudizio, quale è la maniera migliore per fronteggiare questa particolare tipologia di delitti contro la persona. Perché è particolare, nel senso che noi non stiamo parlando in questo caso di una violenza contro una donna all'interno di una famiglia, che fa comunque parte del fenomeno generale delle violenze sulle donne. Noi stiamo parlando di una particolarità più diffusa di quanto non si creda, ma comunque di una particolarità precisa, cioè quella di rei di delitti seriali che esprimono turbe, io la chiamo turbe sessuali, oltretutto nei confronti di minori. In questo caso, la vicenda come l'ho raccontata, per questo vi chiedo come pensate che si dovrebbe intervenire, ci dice comunque 2 dati di fatto. Il primo dato di fatto è che il periodo di detenzione previsto nei nostri codici, secondo, non, come vedete, risolve il problema, perché poi la persona è uscita, la turba è rimasta ed è tornata a compiere le violenze. Questo lo dico anche perché se il suggerimento fosse aggraviamo le pene, potete aggravarle quanto volete, ma siccome non si becca l'ergastolo, la questione, a mio modestissima opinione, ma poi avremo degli ospiti, resta, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che evidentemente in casi come questi, mia opinione, ma voglio sentire la vostra e sentiremo quella degli ospiti, qui siamo in presenza di personalità nei confronti dei quali la pena afflittiva, cioè metterli in carcere, affronta davvero il problema? O, come dire, la sensazione, la ragionevole certezza in questo caso, che la risposta sia no. E allora che cos'altro bisogna fare? Ecco, qui si aprono possibili alternative. Nelle possibili alternative, anche nel nostro paese da diversi anni, i leghisti, per dirne una, prima di Salvini e naturalmente con Salvini, propongono che l'intervento sia la cosiddetta castrazione chimica per stupratori e pedofili. Questo tipo di misura è variamente presente negli ordinamenti di diversi paesi, Germania, Inghilterra, Polonia, la Francia, e in Francia ci fu prima un esperimento che fu fatto un esperimento che durò 2 anni su alcune decine di ex detenuti condannati per crimini sessuali. In tutti i paesi nordici europei è previsto, in Svezia, in Danimarca, è previsto, è entrato anche nell'ordinamento spagnolo, c'è negli Stati Uniti, c'è nella Corea del Sud, c'è nel Canada. Le forme sono diverse, nel senso che alcuni, pochissimi, ce l'hanno obbligatoria, altri la consentono come facoltà in cambio di sconti di pena. Io, e qui finisce la mia introduzione, però ho, per così dire, dei dubbi anche su questo. Dei dubbi, non delle certezze, dei dubbi. Perché? Perché che cosa significa la castrazione chimica? Se volete potete approfondire, trovate molte notizie su questo che vi spiegano che significa il ricorso ad alcuni farmaci particolari. Poiché allo stato attuale delle nostre conoscenze neurobiologiche noi non abbiamo ancora individuato con certezza, chiamiamolo per semplificare e non si arrabbino ovviamente i neuroscienziati che ci ascoltano, l'interruttore specifico del desiderio sessuale, si interviene con principi attivi che appartengono a una famiglia di farmaci che sono quelli che generalmente si usano, per fare un esempio, non solo per questo, ma per ridosare massicciamente l'ormone maschile. Quindi la stessa famiglia a cui appartengono, per esempio, per capirci, non che sia collegato, ma per capirci, i farmaci che vengono assunti nelle terapie ormonali ad alto impatto di chi cambia genere sessuale da quello maschile a quello femminile e quindi si abbatte il testosterone. Questi farmaci hanno 2 caratteristiche. Primo, per essere tra virgolette efficaci, ripeto, qui non si interviene sul desiderio, si interviene con grande pesantezza sull'identità sessuale, nel senso che si interviene nell'equilibrio ormonale e metabolico dell'individuo, e hanno effetto se l'assunzione è lunga, cioè permanente, fino a, e questo a me pone un problema, significativamente rendere pressoché irreversibile il ritorno alla condizione pre-trattamento. Allora, io di mio, e ho finito, ho un problema, perché io non credo molto che faccia parte della possibilità degli ordinamenti eseguire interventi di tipo inibente per sempre. Come sono contrario a tagliare le mani, per fare un esempio improprio, alla Sharia musulmana, e sono contrario, come ovvio, a pena di morte, eccetera, eccetera, però poiché l'impatto di questi farmaci non è specificamente individuato sull'origine di una turba sessuale, ma ha un impatto a largo spettro e che è praticamente senza ritorno, io ho dei forti dubbi, non ho certezze, ma ho forti dubbi. Ho tentato di spiegarvi, per come sono capace io, che non sono un tecnico del settore, la questione aperta. Poi voi chiamateci 800 24 00 24 per dire come la pensate. Però a me questa vicenda, come uomo nei confronti delle donne, nei confronti di mia moglie, di quello che rischia per strada, come padre, me lo pongo molto seriamente questo problema delle violenze nel nostro paese. Allora, noi cominciamo con una riflessione prima e con un primo ospite sulla questione appunto ordinamentale, penale e degli aspetti naturalmente che anche di medicina forense, visto la particolare tipologia della personalità seriale e dei reati compiuti da Edgar Bianchi. Non è il solo, perché oggi trovate per esempio nei giornali, anzi trovate ieri il 28 di settembre una notizia analoga che riguarda Reggio Emilia. Reggio Emilia ha chiesto 10 anni di carcere per un pedofilo seriale. Ieri c'era la prima udienza a Bologna dopo le decine e decine di casi accertati e in questo caso è un 40enne brasiliano. E il sostituto procuratore di Bologna Roberto Ceroni ha chiesto una condanna a 15 anni nel suo caso, una condanna a 15 anni che come vedete è quasi uguale a quella che in primo grado fu irrogata a Edgar Bianchi, che era di 14 anni e 8 mesi, poi diventati 12, poi scontati 8 e che non hanno risolto il problema. Prima affronteremo questa questione qua, poi dopo nel proseguo della puntata, poiché c'è stato recentissimamente, proprio 3 giorni fa, l'audizione alla Camera sul tema dei dati Istat sulla violenza di genere nel nostro paese, ci sposteremo con l'Istat a capire meglio, a ricordarvi la quantità del fenomeno rispetto ai suoi andamenti pluriennali. Sta aumentando o diminuendo la violenza di genere, la violenza di genere verso donne italiane, donne straniere, compiuta da chi a quali altri dati sarebbe utile avere accesso che oggi invece non sono contemplati. Ma prima cominciamo dalla riflessione: non basta la pena e forse non basta aggravarla. Allora, per questo è con noi Giulia Bongiorno, avvocato, ex deputato, di cui io ho una stima infinita, e grazie di essersi resa disponibile a essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a lei, e soprattutto la stima è cambiata soprattutto dopo l'introduzione di oggi, nel senso che secondo me questa introduzione ha fatto capire finalmente che la violenza sessuale non è uguale alla violenza negli stadi, non è un problema se peggio o meglio, è un problema che è diverso, e mi sembra che l'introduzione l'abbia fatto comprendere. Giuro che non ci eravamo messi d'accordo, perché non oserei mai che lo pensaste a casa, prego. No, però molte persone mi dicono, ma la violenza è violenza, avvocato, alla fine che importanza ha chi riceve le denunzie, le pene sono uguali un po' per tutti, perché lei si fissa, perché io in realtà dal 2009 parlo anche dell'ipotesi della castrazione di cui si stava parlando prima. Allora, punto numero uno, problema pene. Il problema pene in Italia non è affrontato assolutamente in maniera adeguata, perché noi abbiamo ovviamente 2 codici, il codice penale e il codice di procedura penale. È come se il codice penale prevedesse delle pene, poi il codice di procedura penale permettesse al soggetto condannato o al soggetto imputato di scegliere una serie di percorsi che svuotano le pene previste nell'altro codice, perché è sufficiente anche per un soggetto colto in flagranza di reato. Flagranza significa, lo dico ovviamente per chi ci ascolta, colui che non ha la possibilità di difendersi perché è stato colto nell'atto di consumare una violenza e quindi che l'ammette, un reo confesso, ecco, questo soggetto, per il fatto stesso che dice io voglio fare un processo che si chiama processo abbreviato, ho diritto a un terzo di sconto di pena. Allora, quando si chiedono soluzioni, io dico, questo processo abbreviato, che significa abbreviare il processo perché i costi della giustizia sono troppi e dobbiamo abbreviare i processi, a cosa serve in questi casi? Non è che questo soggetto avrebbe un processo particolarmente lungo, durerebbe lo stesso un'udienza, non è che metterebbe 50 testimoni. Soprattutto non ha senso prevedere uno sconto di pena senza nulla in cambio. Esatto. Punto numero uno. Punto numero due, le pene, come correttamente si diceva prima, si svuotano anche in carcere perché poi si sconta solo la metà. Allora, io sono contraria all'atteggiamento perdonista, perché se la persona di cui stiamo parlando in realtà è uscita dal carcere molto prima da quello che prevedeva il codice penale, evidentemente non ha finito il suo percorso. Quindi non è che è la pena che non ha funzionato, sono gli sconti della pena, perché se questo soggetto esce sa benissimo che lo Stato anche la prossima volta gli darà lo sconto e potrà uscire dopo pochi anni. Quindi secondo me, prima di dire che una sanzione funziona o no, dobbiamo prendere atto che bisogna applicarle per intero. Punto numero uno. Pronto? Perché anche questa è certezza della pena. La certezza della pena non è solo nella possibilità di farla franca all'inizio, ma nel fatto che ne venga combinata una quando si sa che poi non verrà scontata. Ecco. Esattamente, certezza della pena è che quello che c'è sulla carta deve restare. Allora, quindi abbiamo il primo problema, che vengono svuotate le pene da quello che già è previsto dal codice di procedura penale. Dopodiché, siccome in Italia c'è il problema del sovraffollamento delle carceri, via via che si susseguono i vari ministri della giustizia e degli interni, decidono che non ha senso creare delle nuove strutture e si preferisce fare i cosiddetti svuota carceri. Quando ero giovane, prima si facevano le amnistie, poi si passò agli indulti e adesso si fanno gli svuota carceri, che altro non sono che un provvedimento che sono provvedimenti che permettono a chi proprio sta in carcere e ancora deve scontare delle pene di uscire improvvisamente, senza nessuna particolare ragione. E allora, se noi mettiamo da un lato le pene che si svuotano e dall'altro questo Stato che ciclicamente ogni 2 anni più o meno li mette fuori, è chiaro che noi abbiamo sul territorio soggetti che sanno che se vengono presi potranno riuscire. Quindi c'è un fallimento totale della sanzione per come viene applicata. Dopodiché il tema della castrazione chimica è molto discusso, ma io dal 2009 sostengo che va sperimentato. Nella nostra Costituzione è previsto il divieto assoluto di trattamenti sanitari contro la volontà del soggetto. Sì. Quindi è chiaro che se noi oggi introducessimo una legge stabilendo che come sanzione va la castrazione chimica obbligatoria, sarebbe una legge incostituzionale. Ed allora, come correttamente citava lei prima, si potrebbe introdurre un meccanismo che consente al soggetto, soprattutto se è un recidivo e che quindi insomma sta continuando a consumare questi reati, di scegliere, e cioè di propria volontà scegliere, se vuole uno sconto di pena, di avere questo tipo di trattamenti. Dopodiché è verissimo, su questi trattamenti aspetti, prima di inoltrarci su questi trattamenti, sì. Vorrei che rispondessi con chiarezza una cosa, perché sì. Riguarda sì. Chi da anni invece propone questa come una parte di pena afflittiva, non volontariamente come lei ci ha spiegato, perché, ma la propone come è in alcuni stati americani. Io ricordo, chi ci ascolta, come nota informativa se non lo sapete, che negli stati americani in cui è prevista, per esempio California, Florida, Louisiana, l'Oklahoma, la Georgia, il trattamento farmacologico fa così parte della pena che, anzi, in 3 di quelli che vi ho citato vengono sottoposti i detenuti condannati a pene detentive pesanti senza che lo sappiano e senza bisogno del loro consenso. Domanda all'avvocato, buongiorno, lei mi pare che l'abbia già detto, ma rispondiamo con chiarezza a chi ci ascolta: in Italia trattamenti coattivi di questo tipo sarebbero incostituzionali? L'articolo 32 della Costituzione lo vieterebbe allo Stato. Allora, io, per come la penso io, se non ci fosse l'articolo 32 vorrei persino quello obbligatorio. Sì. Però, siccome sono una giurista, devo prendere atto che allo Stato, se devo fare una norma, c'è questo divieto. Quindi l'unica forma di sanzione con trattamento ammissibile è un tipo di trattamento farmacologico, quindi una terapia, che consenta al soggetto di scegliere se sottoporsi a questa forma o no. È chiaro che in cambio lo Stato deve dare qualcosa, per esempio una riduzione della sanzione. Si potrebbe ad esempio prevedere per i recidivi, cioè quelli che spesso arrivano in udienza e dicono al giudice: guardi giudice, io le chiedo uno sconto perché è proprio un impulso più forte di me. Che sarà il caso di Milano, perché noi abbiamo nel frattempo le dichiarazioni in agenzia dell'avvocato che sta difendendo Edgar Bianchi, che è l'avvocato Paolo Tosoni, che ha fatto battere dalle agenzie la richiesta praticamente formale in vista dell'interrogatorio che ci sarà domani con il GIP del suo assistito, di sottoporsi a un trattamento di questo tipo. E tant'è vero che Edgar Bianchi, ci sono i virgolettati sulle agenzie, tramite l'avvocato dichiara: pensavo di esserne uscito, di essere guarito, avevo una vita normale, una fidanzata, volevo sposarmi, ma ci sono ricaduto e voglio essere curato. Quindi sarà esattamente il caso, con ogni probabilità, degli sviluppi milanesi. Ma Ma ecco, questo ovviamente è una notizia che apprendo adesso, però potrebbe essere un'ipotesi percorribile quella di stabilire che un soggetto che vuole uno sconto di pena si sottopone, però ecco qui l'altra cosa correttamente detta nell'introduzione da lei. Non si deve pensare che questi trattamenti farmacologici consistano nell'assunzione di un singolo farmaco, esatto, una tantum. Quindi bisogna innanzitutto, perché questo deve essere fatto in maniera corretta, spiegare benissimo le conseguenze di questi trattamenti e spiegare che per accettazione significa la sottoposizione a questo trattamento per moltissimo tempo, non per una settimana, perché l'efficacia che è stata finora sperimentata è soltanto quella nel tempo, quindi il singolo episodio di assunzione di questo farmaco non serve proprio a nulla. È chiaro che poi si pone il secondo problema, e cioè che tipo di incidenza può avere questo trattamento sulla salute. E qui io, se seguo la sua impostazione, lo capisco, perché è volontaria a quel punto da parte di chi si sottopone. Bravissimo, io dico questo. Fino a che è una cosa obbligatoria, allora ci dobbiamo noi come cittadini porre il problema, ma io non posso fare un trattamento a una persona se non ho la certezza, e siccome tutti sapete che la scienza è molto più incerta del diritto, noi la certezza non l'avremo mai dei trattamenti farmacologici. Ma nel momento in cui noi facciamo fare una scelta e questo soggetto dice io sono alla 20ª violenza, io lo accetto, a quel punto stop, perché c'è un'accettazione consapevole anche per me, quello punto. Sì. E anche per me, cioè lo dico per uno che è convinto che ci siano dei diritti naturali individuali che vengono prima dall'ordinamento, poiché le inibizioni possono essere permanenti e avere a che fare con una complessità di questioni vitali, senza l'espressione della volontà, lo so che molti non lo capiscono, io lo vedo già dagli sms, ma che stiamo parlando di un plurimo violentatore e ti pone il problema della sua volontà. E se guardiamo dal punto di vista dei fondamenti che deve tutelare un ordinamento, dobbiamo porcelo il problema. Io lo so che vi sembrerà strano, cari ascoltatori, però almeno l'avvocato Buongiorno vi ha dato un iter, sostiene un'ipotesi, vi sottolinea che chi la dichiara come obbligatoria è incostituzionale, dobbiamo cambiare la Costituzione. Lei dice cambiamola, dice l'avvocato Buongiorno, però intanto il problema l'ha individuato. Dopodiché, in termini volontari, a quel punto, in cambio uno sconto di pena, però c'è una volontà che ancora il fatto che l'ordinamento può rimanere indifferente alle sue conseguenze, perché se le assume come parte volontaria di un meccanismo inibente al di fuori del quale egli per primo dichiara di non essere in grado di controllare la propria pulsione. Ecco, perché avvocato Buongiorno, dopo tanto spazio del dibattito pubblico sui femminicidi, la violenza di genere eccetera, però poi il Parlamento su un cammino come questo non si inoltra mai? Perché secondo me è un tipo di legge che non dà tantissimi riscontri in termini di consenso. Esatto. Perché per riuscire a fare funzionare il processo penale bisognerebbe prendere un po' di risorse e darle. Però io credo che se si danno dei bonus, se si danno così dei soldi a pioggia, è chiaro che il soggetto destinatario percepisce il beneficio. Se oggi qualcuno si alza e dice abbiamo destinato delle risorse alla giustizia, non credo che poi torneranno voti. Ha dato una risposta molto chiara per quello che mi riguarda. La sottoscrivo, ma non so quanti che in ascolto, però è molto molto chiara. Grazie alla chiarezza, anche senza nascondersi tra lo scudo del gergo tecnico, dell'avvocato Buongiorno. Grazie, lo dico a titolo individuale, per quello che fa e continuerà a fare su questo, ma non solo su questo, ma per la giustizia italiana. Noi torniamo dopo la borsa per vedere i dati del fenomeno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:36, primi 30 secondi. L'argomento trae spunto, insomma, perché è più ampio, purtroppo non è un solo caso, sono molti, ma dalle violenze nei confronti di una minore a Milano e altre, prima che si identificasse il colpevole Edgar Bianchi, 39 anni, che già tra il 2004 e il 2006, con le sue famigerate imprese, più di 20 volte andò a segno con violenza a minorenni a Genova, condannato a 14 anni e 8 mesi in primo grado, poi diventano 12, ne sconta meno di 8 per un indulto, ed ecco qui, perse le sue tracce, rifà la stessa cosa e adesso dichiara, ci informa il suo avvocato in agenzia, che chiede di essere sottoposto a un trattamento sanitario. Abbiamo visto in quanti paesi esiste l'idea del esiste la strada condizionata o dall'espressione della volontà e in altri no, del cosiddetto trattamento di castrazione chimica, e abbiamo sottolineato però che si tratta di farmaci che hanno un effetto solo se continuate a essere assunti per periodi lunghissimi e che a quel punto diventano inibenti senza possibilità di ritorno, perché intervengono appunto su alcune caratteristiche di fondo dell'identità e del metabolismo della persona. Allora, sentiamo innanzitutto, prima di andare con l'Istat a un po' di dati sul fenomeno della violenza nel nostro paese, come la pensate? Cominciamo con Rodolfo che ci chiama da Pavia. Prego Rodolfo. Sì, sono Rodolfo. Una fattispecie di castrazione chimica sussiste, è già in atto dal punto di vista medico come terapia di base nel caso del tumore della prostata. Sì. E quindi la castrazione che viene fatta con dei farmaci, e purtroppo le conseguenze però, oltre che sul piano della inibizione del testosterone e quindi degli effetti sessuali del testosterone, il testosterone stesso ha un'efficacia metabolica. Sì. In particolare sull'osso, e quindi è facile trovare in questi pazienti che hanno terapia a lungo termine con castrazione chimica dei crolli vertebrali e delle fratture patologiche. Lei è un medico? Sì, io. Ah, ecco perché non l'avevamo promesso, no, per dirlo a chi è in ascolto e dare ancora più peso alle sue parole. Ecco. Sì, questo è... questa è una realtà che è corrente, per cui dobbiamo intervenire con altri farmaci per trattare queste alterazioni, questi effetti collaterali, effetti collegati alla castrazione chimica. Ovviamente un altro effetto del testosterone sulla massa muscolare, e quindi un soggetto con tumore della prostata, che sia in genere un paziente anziano, se pensiamo pazienti giovani da sottoporre a tale trattamento, ovviamente ci dobbiamo aspettare anche una riduzione della performance muscolare, e infine anche si è visto che gli soggetti ipogonadici hanno un aumentato rischio cardiovascolare per delle modifiche. Alla luce di tutto questo, e grazie al medico per avercelo detto, come cittadino lei come la pensa sulla questione di cui abbiamo parlato prima? Come medico la situazione è questa, e quindi a fronte di uno calcolo rischio e beneficio, tumore prostata avanzato, quindi con un rischio importante per il paziente, questo credo che sia degli effetti che possono essere accettati e certo, controbilanciati da una terapia specifica. In questo caso non lo so, insomma, sicuramente la dottoressa Buongiorno dice che deve essere una accettazione da parte del soggetto. Del soggetto che è sottoposto a procedimento giudiziario. Questo qui potrebbe essere accettato, bisogna vedere, non lo so, come cittadino, certo, io sono... penso che che la società vada tutelata da questi soggetti, non so se... Non c'è dubbio. E quindi lei ha dei dubbi sulla volontarietà, detto capisco. Nel calcolo costo-beneficio. Sì, ma capisco. Dove pende l'ago della bilancia. Esattamente. Grazie della chiarezza. E sentiamo come la pensa dopo Rodolfo Andrea, che ci chiama da Milano. Andrea. Buonasera Oscar, è piacere di conoscerla anche solo telefonicamente. Prego, grazie. Senta, io ho sentito il medico e chiaramente faccio un passo indietro perché non ho le competenze per parlare di questo. Semplicemente vorrei portare la mia testimonianza. Io sono papà di due bambine, una più piccola e l'altra che ha 13 anni, ne farà 14 a gennaio, e penso che possa intuire, sì, essendo padre anche lei, che cosa si possa provare in questi frangenti. Sì. Devo dire che al netto delle reazioni di pancia, che sono comprensibili, io credo però che ci sia una sorta di della serie arrendiamoci, perché da quello che ha detto anche la dottoressa Buongiorno, che saluto, immagino che non sia più in linea, anche lei ha detto che alla fine di tutti i conti questa è la legge, questa è la situazione e siamo qui. Noi siamo qui in Italia, dove purtroppo prendiamo atto che anche i pedofili, purtroppo, ribadisco, la possono fare franca, e questa è una cosa terribile, è agghiacciante, eppure è così, Oscar. Sono molto d'accordo, però l'unica cosa di cui ha sottoposto il limite imbarcabile, che per il resto anche lei non vuole che sia così, l'avvocato Buongiorno, ma in sua difesa, poiché assente, ricordo solo che l'unico limite che ha posto è in relazione ai trattamenti di, tra virgolette, castrazione chimica non volontari, il richiamo al vincolo costituzionale. Lei ha anche detto che lo cambierebbe, però bisognerebbe farlo prima, se si pensa che non debbano essere volontari, cioè intrapresi su scelta del giudicato e condannato, ma debbano essere, come avviene in altri paesi al mondo, le ho ricordati, obbligatorio. Ecco, obbligatorio in assenza di volontà, ci ha detto l'avvocato Buongiorno, bisogna cambiare la Costituzione. Lei lo farebbe, anche tu, da quello che ho capito? Assolutamente sì, e ti dirò di più, io credo che non ci dovrebbe essere l'accettazione da parte del colpevole. Basta, cioè, è una cosa che io ti faccio a prescindere. Sì, sì, ci sono paesi, infatti, coordinamenti sono così, e nel nostro paese è un dibattito aperto da anni. La cosa incredibile è che non si riesca mai poi a portarlo in un dibattito parlamentare. Ecco, questo poi è un mistero italiano. Continuiamo a parlare invano tra noi. E queste vicende avvengono e come? E quindi sentiamo come la pensa. Grazie Andrea. Mario dalla provincia di Roma. Mario, prego. Buonasera a tutti. Io ho un punto di vista, diciamo così, esperienziale, perché io faccio il volontario in carcere da oltre 20 anni. Ah. E fatto questo, sono entrato nelle cosiddette aree protette. Le aree protette sono quella parte, quelle sezioni dove vengono messe tutte quelle persone, prime gli sex offenders e i reati di allarme sociale e gli ex appartenenti alle forze dell'ordine o dell'esercito e via, che non possono stare nei reparti comuni perché avrebbero naturalmente dei problemi in vita comune. Allora io parto da questo presupposto. Allora, questa è la legge, come ha detto benissimo l'avvocato, per cui anche per le tossicodipendenze e via, se non firmi e non accetti il trattamento non esci. Ecco, questo è il vulnus giuridico. Però in questi 8 anni di detenzione, quello che io faccio presente come riflessione, che cosa è stato fatto per questa persona? Perché il carcere è solo custodia, ha solo un valore custodiale, ma con persone che hanno reati con problematiche forti di questo tipo, che possono essere di ordine psichiatrico, sicuramente gravi dal punto di vista psicologico, mi rifaccio a quello che giustamente ha detto l'avvocato Buongiorno: non ci sono le risorse, per cui io glielo dico io, che gli assistenti sociali e gli psicologi e gli psichiatri sono all'interno degli istituti tutti a prestazione, cioè di assistenti sociali ce n'è uno che è dipendente del Ministero della Difesa e sta all'interno del carcere, e anche di psicologo e anche di psichiatra, uno, basta. Gli altri che servono in istituti magari di 1.000-1.500 persone, tutti gli altri sono dipendenti di cooperative che praticamente hanno fatto le convenzioni col carcere. Lei capisce che quando un assistente sociale, o soprattutto parlando di psicologi, che devono esaminare una persona, che devono fare 12 ore settimanali divise su 3 giorni, no? E ci hanno magari le richieste, le domandine di 20 persone, che prognosi possono fare? Che caso clinico possono portare avanti? Pari allo zero. Ecco perché questa persona diciamo così, si è pseudocurata da sola, oppure non lo so, questo non lo posso dire, non lo posso sapere, e quando è riuscita, avendo fatto sicuramente tutta la pena, anche indultata o compagnia di scuola, è ricaduta esattamente tale e quale. Allora, cioè sulla sua turba di cui non sono abbiamo... state fatte sicuramente nulla, cioè, oppure tanto, e doveva essere fatto di più. Questo io non lo so perché non lo conosco. Certo. Però lo conosco tanti altri casi. Tanti altri casi, e le dico pure che ci vuole il percorso psicologico, per il semplice fatto che ci sono all'interno di questi reparti, sono chiamati in gergo i negatori assoluti, cioè sono delle persone che vivono anche una condotta intramuraria perfetta, cioè non hanno cose e via, ma è tutto all'interno, cioè io parlo con queste persone, non è che non ci parlo dal punto di vista di altre cose, non sono uno psicologo, sono un operatore sociale. Io devo dire che apprezzo molto la sua testimonianza, perché è un pezzo del che dà forza e spessore al mio ragionamento. La pena detentiva, quando siamo in presenza di turbe psichiche sessuali, come si vede, capisco che è la parte afflittiva della pena, ma non è in grado minimamente, di, allo stato attuale, di come è organizzata l'offerta degli istituti in cui si articola il circuito della detenzione nel nostro paese, non interviene minimamente sulla radice del problema del singolo condannato per reati seriali psichici come natura di questo tipo qua. Quindi io voglio anche ringraziare Mario e quelli come Mario che poi prestano la loro opera di volontario nelle carceri. Io lo faccio con tutti i volontari, insomma ci sono alcuni milioni di italiani che hanno un'idea del loro tempo da donare agli altri, che sono la costruzione dal basso della coesione sociale e della forza straordinaria di questo paese. Allora adesso andiamo brevissimamente con le notizie sul traffico e poi andiamo ai numeri del fenomeno con la dottoressa Giuseppina Muratore dell'Istat. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, sono le 16:49 primi 55 secondi. Vediamo un pochino numeri ufficiali, quelli censiti, approfonditi dall'Istat, che nell'ambito della specializzazione, approfondimento dello spessore e della qualità della sua produzione di dati, ha iniziato a seguire anche i dati sulla violenza di genere. C'è stata proprio il 27 un'edizione alla Camera su questo, e ovviamente stiamo parlando in questo caso di violenza di genere che è più ampia di delitti come quelli di cui stiamo parlando adesso su minori o casi di pedofilia dovuti alla turba sessuale. Stiamo parlando della violenza sulle donne in generale, in tutte le sue espressioni nel nostro paese. Grazie di essere con noi per questo approfondimento a Giuseppina Muratore, che appunto lavora nel Servizio Sistema Integrato Salute, Assistenza, Previdenza e Giustizia della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Censimento della Popolazione dell'Istat. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera. Allora, rispetto alla percezione del fenomeno, i dati reali della violenza di genere del nostro paese, in che trend storico sono? Salgono, scendono, e nel ranking comparato stiamo tra i paesi più civili, meno civili? Come siamo messi? Allora, rispetto a ciò che noi raccogliamo, abbiamo raccolto due indagini effettuate molto importanti nel 2006 e nel 2014. Se andiamo ad analizzare 5 anni precedenti l'indagine del 2006-2014, noi vediamo che complessivamente il dato delle violenze tende un po' a diminuire, ma soprattutto le violenze più lievi, da momento che ahimè restano stabili le violenze più gravi come gli stupri, i tentati stupri o i tentativi di strangolamento, così. Però diminuiscono, diciamo, parzialmente, a parte le molestie fisiche e sessuali, sono soprattutto opera da sconosciuti, ma anche da parenti, amici e colleghi, diciamo che c'è un lieve miglioramento, soprattutto c'è una maggiore capacità di denunciare il fenomeno da parte delle donne, c'è un riconoscimento maggiore, nel senso che le donne la definiscono maggiormente come un reato o si rivolgono di più ai centri antiviolenza, anche se parliamo sempre di basse percentuali di denuncia. Ma voi lavorate sui dati del sistema giudiziario o complessivamente siete in grado di elaborare i dati che provengono dall'intera rete ASL, centri antiviolenza eccetera, dei servizi sociali italiani? Allora, guardi, i dati che le ho detto adesso provengono da indagini sulla popolazione, questo dire che abbiamo intervistato circa 25.000 donne italiane e straniere, e quindi sono dati anche del sommerso, includono. Viceversa, l'Istat però tratta anche i dati delle statistiche giudiziarie, quindi i dati dei procedimenti per cui viene scelto sì archiviare il caso o iniziare l'azione penale, i dati sui condannati. E in prospettiva lavoreremo anche sui dati in arrivo dei centri antiviolenza, dei pronto soccorsi, perché le pari opportunità hanno chiesto all'Istat con un accordo istituzionale di creare un sistema informativo ad hoc sulla violenza di genere, in cui interno dovranno confluire anche i dati dei servizi, quindi per monitorare anche l'aspetto di protezione della vittima, di contrasto, quindi senta, diversi aspetti. Lei lo sa che nella percezione pubblica uno degli aspetti di questo fenomeno che viene considerato, percepito come in enorme ascesa, è la violenza ad opera di uomini stranieri, immigrati, profughi, eccetera. I dati cosa dicono? No, i dati non dicono questo. Allora, diciamo che non abbiamo un trend per quanto riguarda le indagini che le dicevo, perché la prima volta abbiamo chiesto questa informazione all'interno dell'indagine del 2014, quindi non abbiamo un dato di trend. E è sicuramente un dato presente, perché il 15% degli stranieri commette violenze fisiche o sessuali, ma anche rispetto alle proprie compagne, così come gli italiani nei confronti delle donne italiane. Quindi diciamo che tra le forme che loro compiono, cioè considerando sia la violenza fisica che la violenza sessuale, le minacce, diciamo quello che emerge adesso dai media, degli stupri, in realtà sono solo il 5%. Se andiamo a includere gli stupri anche all'interno della coppia, no? Quindi qualsiasi autore straniero è il 9%, però va considerato un altro aspetto. Gli stranieri soprattutto commettono violenze e stupri nei confronti di persone straniere, cioè di vittime straniere, sì, non di vittime italiane. Quindi il 9% delle vittime italiane, ma includiamo anche chi, una donna italiana che ha sposato uno straniero, ha certo subito il 9%, ma in quanto invece hai, per le donne straniere, ai colpevoli italiani, cioè gli uomini italiani nelle graduatorie, sì, internazionali, estendendo la violenza di genere anche nei confronti della propria moglie, a casa, figli, eccetera, come stanno messi? Sono più violenti o meno violenti dei paesi d'origine? Allora, la premessa è che non ci sono dati confrontabili, nel senso che adesso la Commissione europea ha chiesto ad Eurostat di condurre un'indagine sulla violenza contro le donne a livello europeo, e dall'indagine che ha condotto il Fundamental Rights Agency della EU, diciamo emergono tutti i paesi del nord come particolarmente violenti. Qua bisogna dire che sicuramente ci sono dei livelli, ad esempio, di alcol diverso, di alcol diverso, diversa, anche di tendenza a denunciare, a far emergere diverso, perché la realtà è incredibile a dirsi, ma è questa, dai dati che sappiamo sono i paesi nord europei quelli con i maschi, diciamo così, autoctoni, domestici più violenti sulle donne. Va bene, riprenderemo sicuramente il tema alla prossima occasione, grazie.